deve essere importante perché in lui è concentrato il senso sacro dell'intero creato. Dio deve essere importante, ma attenzione, attenzione, non parlerò di Dio con chi sostiene una religione. Tu lo chiami Dio, ma io non lo conosco. Vive in cielo il tuo Dio e noi siamo in un fosso. Il mio Dio non giustifica le contraddizioni, lui si schiera e combatte, non rimanda a domani. Lui non deve incarnare le mie aspirazioni, lui mangia con me, procediamo a tentoni. Mille generazioni, è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato. Tu lo chiami Dio, ma io non lo conosco. La mia spiritualità non si esprime nel culto. Il mio Dio non vive in cielo, non sa neanche volare. Se ho bisogno di lui non lo devo